Il punto di Stefano Folli. Sarà anche per l'improvvida e offensiva frase di Marchionne su Firenze, ma è un fatto che Renzi ha trovato il modo di mantenersi al centro della scena anche dopo l'estenuante dibattito sul regolamento delle primarie. Criticando l'amministratore delegato della Fiat per le sue scelte o non scelte, il sindaco di Firenze ha chiuso la bocca ai suoi critici da sinistra, a coloro che lo accusano più o meno velatamente di essere al servizio di non meglio identificati poteri forti. Saper stare sulla scena e ottenere i titoli dei giornali è, come si sa, il primo ingrediente del successo nella odierna politica mediatica. Renzi ci riesce e sa polemizzare. Ha bisogno di farlo perché dopo l'Assemblea di Roma il tempo non lavora più per lui, l'effetto sorpresa è svanito, l'effetto iniziale, e la macchina del partito comincia a girare a pieno regime per Bersani, il quale resta il favorito delle primarie. Ma il sindaco dimostra anche, con l'episodio Marchionne, di non tirarsi indietro. Se non vincerà, sarà almeno in prima linea nel rinnovamento del centrosinistra. Un rinnovamento che non potrà non avvenire e in tempi che ci auguriamo molto brevi.